queste qua sull'amore perduto di De André, quella questa lei ritorna in auge col film X, sì. Ma quell'altra che cantava anche nel concerto che ha fatto, le cantava Battiato. Questa è una cosa. Gli piace le bestie? Sì, la vuoi farlo bene. Posso lasciare, posso portare la ciana? Quando mi dice, quando viene l'agriturismo, mi dice, avete bestie? Avete bestie, sì, la ciana. Vuoi in canna o... Canna. Sempre. Tassativamente canna. Però bis. Canna, bis, che ho ribaltato tutto qua. Vuoi qualcosa? Bis, anti bis, bis, cannabis, bis, come la bisa. Non fatto un in più. La bisia. Ti butto. Luca, sì, metto la... No, no, Luca, se bevi te, se no viene da un po' del mio. No, ma mi passo. No, no, ma è senza picchiare. Già, hai visto la bisa? Fede. Anche a me, cazzo. No, non ho visto. Sei bene, che sei tazzina. Non sono cammine, mi piace tanto. Andiamo a regalare. E tocca anche lì. A compleanni... In un vortice di polvere, guarda quando sento questa canzone, mi viene sempre in mente questa. Sì, proprio sono Sorella Jones. Ecco, ma ricordo più. So le parole. Ma mettila a un tono che riesce a cantare. In un vortice di polvere, gli altri vedevano siccità. Tirato mai stasera, una volta solo la sera, te che ne dai anche. Oh, anche massa, una basta. Ah, se non le cara per le spese, cara mia. Ah, ancora i greghi furbi di.